Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Ci sarebbero nuovi indagati per le stragi di mafia del 1992, forse anche uomini dei servizi segreti. Il vicepresidente del CSM Mancino sotto attacco per la presunta trattativa tra Stato e Cosa Nostra quando era ministro dell'Interno. Alla prova della Camera è il decreto anticrisi. L'assemblea di Montecitorio sta per votare il provvedimento, ma senza l'approvazione degli uomini di Lombardo. Il G2 è nato ieri, storico incontro alla Casa Bianca tra Obama e i vertici cinesi. Il presidente parla anche di diritti umani. La storia della schedina mai giocata. Avevano fatto un 5 più 1 al Super Enalotto, ma il tabaccaio non l'aveva passata nella macchinetta. Da domani, dagli ambulanti e nelle sagre non si potranno comprare alcolici. Situazione transitoria. A quanto pare ne parleremo con un'associazione di settore. Mondiale di nuoto, il giorno della Filippi. In vasca anche la Pellegrini. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo dunque con le indiscrezioni che sono state pubblicate questa mattina dal Giornale di Sicilia. Come sapete, si sa che da qualche tempo la Procura di Caltanissetta ha riaperto le indagini sulle stragi del 1992 e appunto, a quanto pare, come avete sentito dai titoli, ci sarebbero i primi nuovi indagati. Indagini della Procura di Caltanissetta sulle stragi del 92 a Palermo, in special modo su quella in cui resto vittima il giudice Paolo Borsellino, procedono a ritmo serrato, avrebbero già portato all'iscrizione nel registro degli indagati di una decina di persone. Dopo aver ascoltato cosa aveva loro da dire l'ex capo di Cosa Nostra, Totò Riina, sulla presunta trattativa fra pezzi dello Stato e la mafia, il pool di PM Nisseni, voluto dal procuratore Sergio Lari, ha posto l'attenzione su una decina di persone che sarebbero coinvolte a vario titolo nella strage del 19 luglio del 92, ma anche su altre due persone, una delle quali detenuta, che avrebbero avuto il ruolo di organizzatori nella strage di Capaci e nel fallito attentato a Falcone alla Daura di Palermo, a fornire nuove indicazioni ai magistrati inquirenti, i pentiti Gaspare Spatuzza e Angelo Fontana, che avrebbero indicato i nomi di esecutori, organizzatori, mandanti o favoreggiatori della strage Borsellino. E fra questi dovrebbero esserci anche alcuni appartenenti ai servizi segreti. Fontana in particolare avrebbe anche parlato di 007 al castello Otveggio e della presenza degli stessi in via D'Amelio, perché li avrebbe visti in TV subito dopo la strage. I magistrati di Caltanissetta hanno inoltre ascoltato nuovamente, come persona informata sui fatti, il giudice Giuseppe Ayala sulla scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino, ma non interrogheranno l'ex presidente della Camera Luciano Violante, che per la stessa vicenda nei giorni scorsi è stato sentito dai PM di Palermo. I magistrati Nisseni acquisiranno i verbali. Giampiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E la vicenda, che avrà sicuramente ripercussioni politiche, in realtà ne sta già avendo e ne ha avute nei giorni scorsi. Oggi anche qualche nuovo atto, ne chiediamo i dettagli alla nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, buongiorno. Contro di me ho ricevuto un attacco duro e violento, accuse che ritengo di non meritare. È così che il vicepresidente del CSM Nicola Mancino si difende dalle pesanti critiche sulla vicenda delle stragi di Stato del 92, quando era ministro dell'Interno. Mancino è intervenuto dopo essere stato ricevuto questa mattina dal capo dello Stato Giorgio Napolitano al Quirinale. Sono i fatti, dice, a dimostrare con quanto senso dello Stato e determinazione si è combattuto quando io ero ministro dell'Interno contro il crimine. E anche il CSM ha espresso solidarietà per Mancino a proposito della vicenda di Paolo Borsellino. L'ex PM di Catanzaro, ricordiamo, Luigi De Magistris, attualmente europarlamentare di Forza dell'Italia dei Valori, accusa Mancino di essere stato ambiguo e inquietante sulle stragi di mafia del 92 e di aver contribuito a fermare alcune inchieste sui rapporti tra mafia e politica. Una posizione sostenuta anche da Antonio Di Pietro e quindi l'Italia dei Valori ad attaccare. Mentre c'è solidarietà a Mancino da PD e UDC. Una polemica nata anche dopo le affermazioni, lo ricordiamo, del boss Totò Riina, che ha accusato persone delle istituzioni per la strage di Via D'Amelio dove morì Paolo Borsellino. Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Restiamo in politica, ci spostiamo alla Camera. Signor Presidente, e questa è la fase finale, quella che sentite in diretta, dell'approvazione del cosiddetto decreto anticrisi. Abbiamo in diretta da Montecitorio il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, la cronaca di questa giornata. Sì, buongiorno. vogliono i nostri ascoltatori. Concluse le dichiarazioni di voto, l'Aula della Camera si è espressa pochi istanti fa positivamente sul decreto anticrisi. Il testo passerà ora al Senato per la conversione in legge. 285 i sì, 250 i no. Il provvedimento sul quale il governo ha già incassato la fiducia ha tra le misure più importanti lo scudo fiscale, la mini stretta sull'età pensionabile, gli interventi per le imprese, la sanatoria per badanti e colf. Nonostante l'imminente pausa estiva, il dibattito parlamentare si è mantenuto animato sui temi economici e quindi sulle misure per far uscire il paese dalla crisi, misure quelle prese da Berlusconi e Tremonti che per l'opposizione sono insufficienti. Bersani, Partito Democratico, punta il dito sullo scudo fiscale e non solo, ascoltiamo le sue parole. Ci sono delle cose impotabili, a cominciare dal tema del condono, e poi ci sono cose che non sono sufficienti assolutamente ad affrontare il problema che abbiamo di fronte. Cioè, qui c'è un punto di fondo, cioè l'Italia quando è messa di fronte a un problema lo supera. Se viene messa di fronte continuamente a un'edulcorazione, a una narrazione rassicurante, senza che poi si vedano dei fatti seri, può crescere la sfiducia. Questo è il punto di fondo e credo che a settembre ci accorgeremo che questo problema c'è. Queste dunque le parole di Bersani. Dalla maggioranza, Cota, Lega Nord, difende il provvedimento a partire proprio dallo scudo fiscale. Sentiamo le sue parole. Si è parlato tanto di scudo fiscale. A parte che questo tipo di misura è stata introdotta anche in quasi tutti gli altri paesi europei. Però noi ci facciamo una domanda semplice. È meglio fare uscire i capitali come è stato fatto in passato o farli rientrare? Io penso che oggi sia meglio farli rientrare. Il provvedimento ha visto dunque l'appoggio del Popolo della Libertà, della Lega, non però nell'ambito della stessa maggioranza del Movimento per l'Autonomia di Lombardo. Critica sulla questione Mezzogiorno dall'opposizione, no di Partito Democratico, UDC e Italia dei Valori, con Di Pietro che è tornato a chiamare in causa il Presidente della Repubblica Napolitano. E da Montecitorio è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Come abbiamo visto alla Camera dei Deputati si è vissuto un altro atto della tensione che sta in qualche modo attraversando la maggioranza, una tensione che ha riguardato la questione del Sud e che riguarda anche la questione delle missioni all'estero e dell'Afghanistan. Di questo tema parleremo tra poco e faremo anche il punto politico con Stefano Folli della questione Afghanistan. Intanto però vogliamo parlarvi di finanza. Vi stiamo aggiornando più o meno quotidianamente sulla vicenda di Luigi Zunino, sulla vicenda risanamento. C'è stato qualche passo importante ieri e oggi Deborah Rosciani finalmente sembra che si riesca a far prezzo in borsa. Sì, dopo una mattinata di sospensione è tornata agli scambi in borsa, risanamento, rialzo del 18%, non riusciva a fare prezzo. In realtà c'è stato anche ad un certo punto un progresso teorico del 28% a 26 centesimi di euro per le azioni del gruppo, e tutto questo dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del piano di salvataggio che è stato elaborato dalle principali banche creditrici. CDA, che si è riunito ieri sera, è arrivato appunto ieri sera questo via libera a questo piano di salvataggio concordato con le banche, un piano di salvataggio che vale 500 milioni di euro, ma soprattutto abbiamo avuto la nomina del presidente di garanzia del gruppo, l'avvocato Vincenzo Mariconda. La riunione di ieri è stata davvero una riunione fiume, durata fino a tarda serata. I vertici della società immobiliare, che da 10 giorni sta cercando di evitare un crack, un fallimento da 3 miliardi di euro, hanno deciso di puntare sulla figura di questo avvocato di origine napoletana. Il suo ingresso al posto del patron del gruppo Luigi Zunino, che resterà comunque in consiglio dopo che lunedì ha rimesso le deleghe da presidente e amministratore delegato, rappresenta, è stato detto ieri, un segnale di forte discontinuità nella gestione del gruppo immobiliare, necessario per sostenere il piano elaborato per evitare il crack. Ricordiamo che questo piano di salvataggio prevede da un lato un aumento di capitale in opzione ai soci garantito dalle banche per 150 milioni di euro, di cui 130 cash contante e 20 mediante utilizzo di crediti chirografari delle banche, con un prezzo di emissione che attualmente è indicato in 45 centesimi di euro per azione. Dall'altro è previsto un'emissione di un prestito obbligazionario convertendo con scadenza 31 dicembre 2014 dal valore di 350 milioni di euro. Tutto questo dovrà dovrà essere presentato domani al Tribunale di Milano. È attesa appunto l'udienza per discutere proprio dell'eventuale fallimento del gruppo. È molto probabile che i legali di risanamento però chiederanno un rinvio. Simone, per adesso è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Da un mondo molto materiale come quello immobiliare da cui viene il risanamento ad un mondo assai più immateriale, quello della radio, ma non la nostra. Bene, la sigla naturalmente l'avete riconosciuta, è quella di Tutto il calcio minuto per minuto, la storica trasmissione di Radio 1, che è quasi una telenovela che si ripete ogni anno. Insomma, la RAI ha qualche difficoltà a ricordarsi di pagare i diritti radiofonici per il calcio, appunto. Allora, Giuliano Balestrieri del Sole 24 Ore ne scrive questa mattina sul quotidiano ed è in diretta con noi. Giuliano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Allora, che cosa è successo? Ma niente, ieri era il termine ultimo per presentare le offerte per i diritti radiofonici del campionato di calcio 2010-2011-2012 e la RAI, come ormai un rituale, non ha presentato alcuna busta, alcuna offerta. Una scelta abbastanza strana, anche perché RTL, concorrente di Radio RAI, ha presentato una busta. Ed è la prima volta che succede che una radio concorrente presenta una busta? Ed è la prima volta che succede da parte di una radio concorrente, sì, non è mai successo che qualcuno sfidasse la RAI su un terreno come quello dei diritti radiofonici, perché nessuno immaginava che ci stesse una struttura come quella di Viale Mazzini. Ok, i soldi di RTL però, Giuliano, non bastano, e però il patron di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, ha detto che a questo punto farà di tutto per non farsi perdere l'occasione, che è già alla ricerca di chi possa finanziare l'acquisto, e adesso ha tempo, 60 giorni, per trattare con la Lega Calcio. Molto brevemente, Giuliano, quali potrebbero essere gli sviluppi, insomma, secondo te è veramente a rischio tutto il calcio minuto per minuto, e poi alla fine, come tipicamente italiano, si aggiusta tutto? La RAI farà di tutto per cercare di aggiustare la situazione, ma in questo momento la palla è nelle mani di RTL 102.5. Se RTL troverà i soldi che servono e che la Lega chiede, nessuno potrà evitare di trasmettere tutto il calcio minuto per minuto. Vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni, vi aggiorneremo naturalmente. Grazie Giuliano Balestrieri del Sole 24 Ore, e abbiamo chiesto al nostro Dario Ceccarelli, visto che chissà mai, potrebbe essere forse l'ultima stagione, quella appena passata, di Tutto il calcio minuto per minuto, di ricordarcelo un pochino. Il compleanno sarà esattamente il 10 di gennaio del prossimo anno, in quanto la prima trasmissione allora aveva soltanto 3 campi collegati, venne trasmessa proprio il 10 di gennaio del 1960. Speriamo allora che questo 50° compleanno non porti male, perché tutto può succedere al mondo, ma se ci portassero via anche tutto il calcio minuto per minuto, quella ineguagliabile messa parlata che adesso dirige Alfredo Provenzali e che dall'esordio Roberto Bortoluzzi condusse per ben 28 anni, un altro pezzo della nostra storia e del nostro calcio andrebbe in archivio. Le radioline accese, le domeniche pomeriggio sospese nella noia, quelle voci familiari di Ameri e Ciotti che rendevano meno amara anche una sconfitta nel derby. Siamo Udine. Sì, d'accordo, Juventus 1, Udinese 0 dopo i primi 45 minuti di gioco, con rete segnata da Brio al 19°. Cielo nuvoloso, c'è anche un po' di foschia, ma le condizioni meteo sono accettabilissime. Linea Ciotti. Grazie Ameri, a Brescia 1-0 per il Napoli, rete di Maradona a 4 minuti dalla conclusione del primo tempo, a te Ferretti. Che Dio ce la conservi, aveva detto Indro Montanelli. E lo ripetiamo adesso, ricordando con affetto anche le formidabili gag dei vari Giannini, Tonino Carino, Ferruccio Gard e quel Gianni Vasino da Genova, formidabile nell'ingarbugliare i concetti più semplici. Prima di tutto tranquillizziamo con una notizia che è confortante, che ci è giunta: tutto bene, tutto quel che finisce bene. Non abbiamo capito nulla, comunque grazie lo stesso. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16:07 nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato della notizia secondo la quale ci sarebbero nuovi indagati per le stragi di mafia del 92, mentre il vicepresidente del CSM, all'epoca ministro dell'interno, è sotto attacco. E poi abbiamo parlato dell'approvazione del decreto anticrisi che ha ricevuto il via libera dall'assemblea di Montecitorio. E poi siamo ritornati sulla vicenda Zunino. Adesso ci occupiamo di Obama e della Cina. Con il nostro Stefano Pistolini, che tutti i giorni, come sapete, conduce a partire dalle 16 Jefferson 2, che prima era Jefferson Ming e quindi si occupava in maniera ancora più possente di Cina e di Stati Uniti, è stato in qualche modo un atto storico quello di ieri, Stefano. Anche le parole di Obama sono state molto forti. Ah sì, ci ha messo tutto il suo impegno, anche tutto il suo impatto meteorologico. Io lo chiamerei comunque un intenso bisogno di un terreno comune, no? Pragmatico e operativo, un G2 tutta sostanza rispetto ai grandi temi invece prevalentemente teorici che erano stati affrontati dal recente G8, a cui peraltro poi la Cina, come ricorderete, all'ultimo minuto era dovuta mancare nel momento ufficiale per l'emergenza uiguri. Si assiste a un profondo cambio di atmosfera, in un certo senso si è già dimenticata, no? Quello che accadeva in piena amministrazione Bush, l'ho testimoniato anche con i miei occhi, quando in occasione, non so, di seminari, di convegni di Cina si parlava in tutt'altri termini, si parlava di spietata concorrenza, di avversario irriducibile, c'era anche politici di gran nome che arrivavano a contemplare entro il XXI secolo la possibilità di una guerra. Bene, Obama sta cambiando l'aria alle stanze. Proprio nei confronti della Cina, la sua strategia della diplomazia, quella che porta avanti sul piano internazionale, sta toccando la massima accelerazione. Niente confronto, collaborazione, interessi comuni su fronti come la lotta all'inquinamento, le regole della finanza, lo stop alla proliferazione nucleare. In sostanza l'America ha bisogno di un interlocutore degno della propria statura, ne ha una innegabile dipendenza e questo bipolarismo mi sembra assumere un impianto dichiaratamente benigno. Non a caso ha messo in campo la crema del suo staff. Con Obama c'è Timothy Geithner, c'è il segretario di Stato Hillary Clinton, è uno staff addirittura superiore per qualità a quello esposto dai cinesi, che è guidato dal vicepresidente Wang Qishang. Sta lucidando l'argenteria, insomma, vuole santificare questo duopolio, un momento importante per Obama. Non so, si può parlare di buon vicinato, forse magari per parlare di amicizia vera e propria c'è un po' di tempo. Ci vorrà un po' di tempo. Grazie Stefano Pistolini per questa analisi e per questo scenario che ci hai fatto, che è uno scenario che, sul quale questo è solo un punto di partenza sostanzialmente. E veniamo ad un altro scenario, ma uno scenario di guerra, quello afghano. Come sapete, si sono moltiplicati nell'ultimo periodo gli attentati ai soldati italiani, questo in vista delle elezioni. Su questo è montata anche una polemica politica, però prima di tutto facciamo il punto sulla situazione sul campo. Gli attacchi ai militari italiani in Afghanistan si sono intensificati negli ultimi due mesi, mano a mano che cresce la tensione nell'area per l'avvicinarsi delle elezioni il 20 agosto, ma anche perché l'attività di pattugliamento del territorio, che implica maggiori rischi, è aumentata. Generale Carlo Bellinzona, docente di scienze strategiche all'Università di Torino. Di fronte a tragici eventi è logico e umano chiedersi se una protezione maggiore avrebbe potuto salvare vite umane. La mia risposta vuole essere più ampia, perché la sicurezza assoluta non esiste. L'avversario può sempre ricorrere a maggior quantitativo di esplosivi, e lo sta già facendo, l'abbiamo visto con l'Ince, e ha tecnologie più avanzate. Quindi certamente un mezzo più protetto e più sicuro, ma occorre poi pensare che, aumentando la protezione, magari si hanno altre limitazioni nell'impiego di questi mezzi. Il problema quindi della ricerca della sicurezza è un problema di capacità di impiego, di operatività dei reparti e anche di peggioramento della situazione. Quindi noi dobbiamo tenere presente che il livello di rischio sta aumentando e quindi la soluzione di mezzi più protetti non risolve il problema operativo generale. Gli attentati, secondo molti analisti, potrebbero far parte di una nuova strategia volta a colpire non solo i contingenti sul campo, ma anche le opinioni pubbliche dei paesi impegnati, affinché facciano pressione sui rispettivi governi per il ritiro delle truppe. Si discute molto di dotazione di mezzi, ma qual è il vero problema oggi in Afghanistan? È il controllo di un territorio che è il doppio dell'Italia, ha complessivamente forze insufficienti, meno di 60.000 uomini della NATO a fronte di un'esigenza di oltre 200.000, un territorio assolutamente impervio che deve essere controllato e se si pensa alle tornate elettorali del 20 agosto significa rendere possibile queste elezioni, cioè la libertà di movimento e di circolazione nell'ambito di questo territorio. Servirebbero 200.000 uomini dunque, ma ce ne sono meno di 60.000. Le regole di ingaggio non sono cambiate, è cambiata la situazione, sono aumentati i pattugliamenti delle strade. Quel che è cambiato sono i caveat. Prima l'autorità nazionale aveva 72 ore per dare ad un'unità l'autorizzazione a intervenire in combattimento a sostegno di un'unità alleata sotto attacco. Ora può farlo in 2 ore. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Questa è la situazione sul campo e i dubbi che emergono, ma dubbi ne sono emersi di molto più generali e li ha sollevati il leader della Lega, Umberto Bossi. Come sapete se ne è discusso per una giornata, poi il problema all'interno della maggioranza sembra essere in parte rientrato. Ne parliamo di questo e parliamo delle tensioni che ci sono anche sul Mezzogiorno con Stefano Folli, editorialista, commentatore, analista politico del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Allora, la questione Afghanistan, dalla lettura che ne dai oggi sul Sole 24 Ore ci sembra di capire sostanzialmente, al di là di una coerenza che effettivamente la Lega ha sulle missioni all'estero, nel senso che non è mai stata particolarmente favorevole, è un gesto di pura convenienza politica. Sì, è una storia che ha radici tutte nostre interne, non è neanche molto molto notevole francamente, perché quando ci sono dei soldati italiani all'estero impegnati in una missione molto pericolosa si dovrebbe garantire loro una coesione sul piano politico che non c'è. Però la questione di fondo è che noi siamo impegnati con gli Stati Uniti, con la NATO in questa missione e che in particolare il rafforzamento della nostra presenza in Afghanistan, non l'indebolimento, il rafforzamento è stato promesso da Berlusconi e Obama in occasione di recenti incontri. Quindi questa è la nostra linea e in questo momento non c'è alcuna ipotesi che noi deroghiamo da questa posizione. Però Bossi ne tiene conto fino a un certo punto, perché Bossi pensa al suo rapporto con il suo elettorato, e il suo elettorato è inquieto, come insomma c'è una certa inquietudine, c'è un po' in tutto il paese, no, su questi temi, e lui dà voce senz'altro a questo malessere. Poi pensa naturalmente alle prossime elezioni regionali, pensa alla trattativa per il Veneto e la Lombardia, no, per le presidenze delle due regioni chiave, e non è troppo, diciamo, prudente nel porre le questioni in un modo anche brusco. Poi naturalmente c'è l'aspetto politico, che è quello che ho detto, cioè il nostro obbligo internazionale, e questo è qualcosa a cui anche la Lega deve inchinarsi, tant'è che poi la cosa è rientrata dal punto di vista degli effetti politico-parlamentari. Però resta questo disagio, e questo disagio viene espresso in forme che certamente accendono un minimo di attenzione da parte dei nostri alleati. A proposito di disagi, c'è il disagio del cosiddetto Partito del Sud, che anche se poi non nascerà veramente, nei fatti c'è, la cronaca parlamentare di ieri tra l'altro ce l'ha dimostrato abbastanza chiaramente, insomma, no? Con l'approvazione della localizzazione del Forum del Mediterraneo a Palermo invece che a Milano, come invece il governo avrebbe voluto. È una tensione che è stata sotto traccia per qualche mese e che adesso è esplosa. esplosa. Stefano, a cosa può portare secondo te? Naturalmente il Partito del Sud non deve essere, diciamo, confuso con la Lega. La Lega ha una storia politica molto seria, molto legata al territorio settentrionale, è un movimento che è nato dal basso, ma il Partito del Sud a me sembra soprattutto un movimento di ceto politico che si riposiziona ed è soprattutto una forma di pressione, una forma di lobby, si può dire, di lobbying sulle scelte del governo nazionale per, insomma, la spartizione e il controllo di fondi. È qualcosa che naturalmente la spinta federalista che si è voluta dare, no, sia pure in proiezione al nostro assetto statuale, tenderà ad accentuare, perché più si parla di federalismo più le regioni meridionali tendono a cercare di accaparrarsi dei fondi e gestirli in proprio. E naturalmente dimostra che c'è una qualche debole capacità da parte del governo centrale, in questo caso il governo di centrodestra, ma credo che il problema si porrebbe anche con un governo di centrosinistra, nel imporre alcune direttive, alcune scelte strategiche di fondo su tutto il territorio nazionale, il che è abbastanza preoccupante, deve preoccupare molto Berlusconi, io credo, e soprattutto in un momento in cui le risorse economiche sono quelle che sono, quindi essere, diciamo, sottoposti anche a queste pressioni naturalmente poi pone dei problemi di compatibilità economica difficili da risolvere. È un altro elemento di un certo disagio, di un certo malessere che c'è in questo momento nel centrodestra e che ha tante ragioni, la principale delle quali è che Berlusconi deve, secondo me, imporre la sua capacità di leadership a tutta la coalizione e a tutto il territorio. Insomma, riprendere in mano la situazione. Grazie Stefano Folli per essere stato con noi e anche per oggi. E noi ci spostiamo, anzi o meglio rimaniamo a Roma, però andiamo dal nostro inviato ai mondiali di nuoto, Dario Ricci. Dario. Sì, buongiorno Simone dal Foro Italico. Allora, la giornata cosa prevede? Ma la giornata, orologi puntati alle 18.35 perché c'è la finale di Alessia Filippi, 1500 metri donne, la romana punta decisamente all'oro, lo ha già dichiarato e ne ha tutte le possibilità per farlo. Interessante però quello che ci ha detto la mattinata, partiamo da Federica Pellegrini, sesto tempo per lei nelle qualificazioni alle semifinali dei 200 metri stile libero, la sua gara è campionessa olimpica in carica e detentrice del record del mondo, seconda in batteria Federica, che insomma non ha spinto troppo sull'acceleratore, sarà anche lei stasera in acqua per qualificarsi alla finale, ma è intanto scoppiata la grana costumi, o meglio è ritornata in auge il tema caldo di questi giorni, perché la Pellegrini si è risentita profondamente, oggi ha indossato il costume del suo sponsor tecnico Mizuno in protesta in qualche modo con lo sponsor tecnico della federazione, l'italiana Jake, che aveva fatto delle pagine pubblicitarie su maggiori quotidiani con l'immagine della Pellegrini con questo costume. Insomma, non si discute solo sulla sostanza, sulla come sono fatti questi costumi, alle 17 c'è una conferenza stampa della Federazione Internazionale a proposito, ma anche sui marchi. Tornando in piscina, Simone, un ultimo istante per sottolineare la splendida prova di Terrine nei 50 rana, semifinale conquistata in scioltezza, e l'ancor più bella prova di Federico Colbertaldo negli 800 metri, finale conquistata con nuovo record europeo. Le 13.32 minuti, ecco le principali notizie della giornata. Ci sarebbero nuovi indagati per le stragi di mafia del 92. Il vicepresidente del CSM Mancino sotto attacco per la presunta trattativa tra Stato e Cosa Nostra quando era ministro dell'Interno. È stato approvato poco fa dalla Camera il decreto anticrisi senza i voti degli uomini di Lombardo. Il G2 è nato, ieri storico incontro alla Casa Bianca tra Obama e i vertici cinesi. Il presidente americano ha parlato anche di diritti umani. La storia della schedina mai giocata, avevano fatto un 5+1 al Super Enalotto, ma il tabaccaio non l'aveva passata nella macchinetta. Da domani dagli ambulanti nelle sagre non si potranno comprare alcolici, situazione transitoria a quanto pare, ne parleremo più avanti con un'associazione di settore. Mondiale di nuoto, il giorno della Filippi sui 1500 stile libero, in vasca anche la Pellegrini. E ora, come si diceva poco fa, parliamo di droga, perché è stato presentato un importante rapporto. La presentazione l'ha seguita per noi il nostro Savino Gallo a Palazzo Chigi, se non sbaglio, Savino. Sì, buongiorno da Palazzo Chigi, dove questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del rapporto mondiale sulla droga stilato dall'Ufficio Droga e Crimine delle Nazioni Unite. Un rapporto che contiene dati per certi versi interessanti per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di sostanze come cocaina ed eroina. Sia l'Afghanistan, primo produttore mondiale di oppio, che la Colombia, principale produttore di cocaina, hanno infatti ridotto la loro coltivazione di circa il 20%. Quanto ai consumi di queste due sostanze, i principali mercati, quello nordamericano e quello dei paesi dell'Europa occidentale, sembrano essersi stabilizzati senza far registrare aumenti. Ad aumentare invece è l'utilizzo delle droghe sintetiche come anfetamine ed ecstasy, specie nei paesi in via di sviluppo, mentre la cannabis rimane la droga più utilizzata nel mondo. Accanto a me c'è il sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega alla droga, Carlo Giovanardi, al quale chiedo innanzitutto se questi dati riflettano o meno anche la situazione italiana. Innanzitutto, questi dati stanno a testimoniare che il contrasto globale e planetario alla diffusione di droghe è efficace dal punto di vista del calo della produzione. Adesso il vero problema nei paesi industrializzati, l'Italia in primis, è quello di far calare la domanda, e da questo punto di vista in Italia siamo in una situazione di chiaro scuro, nel senso che le ultime dati che abbiamo presentato nel rapporto al Parlamento di giugno sono confortanti per quanto riguardano eroina e cocaina, ma non lo sono per quanto riguarda per esempio la diffusione della cannabis fra i giovani. C'è molto da fare, molto da insistere, soprattutto per una cultura della prevenzione, dell'informazione e dell'educazione che segnali gli effetti devastanti che il consumo delle droghe dà per il consumatore stesso, ma anche per l'intera società. Ecco, proprio a questo proposito si parla di provvedimenti proprio a proposito dei giovani abbastanza duri, come ad esempio controlli anche sulle strade e posti di blocco per appunto cercare di limitare questo fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. Grazie. Assolutamente sì, bisogna insistere sulla strada di una maggiore severità per i danni che il consumo della droga e l'abuso dell'alcol provoca a chi ne fa uso, ma anche alle terze persone assolutamente innocenti. Da questo punto di vista, le norme più severe introdotte negli ultimi due anni hanno portato a un calo degli incidenti della mortalità di quasi il 30%. Bisogna insistere però perché, per esempio, nelle ultime settimane, negli ultimi weekend, purtroppo abbiamo avuto dei dati in controtendenza. Allora, misure ancora più rigorose valgono non soltanto a salvare vite umane, ma anche a rendere dal punto di vista economico un grande servizio al nostro Paese. Certo, sono politiche complesse che richiedono un intervento dello Stato, delle regioni, delle famiglie, della scuola, degli educatori, ma l'obiettivo è un obiettivo assolutamente da raggiungere. Bene, io ringrazio il sottosegretario Giovanardi e vi restituisco la linea. E grazie Samino Gallo per questi aggiornamenti e per questa intervista. Noi passiamo a parlare di un altro rapporto che è stato presentato oggi e riguarda l'ambiente e l'energia. Ce lo racconta la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Quest'anno è l'attuale crisi, il filo conduttore del tradizionale rapporto Enea. Il rallentamento dell'attività economica infatti fa calare i consumi di energia, di conseguenza diminuiscono nel biennio 2008-2009 le emissioni di CO2, il dato è del 6% in meno, un rallentamento che riguarda tutta l'Europa, mentre il trend è opposto nei paesi emergenti come India e Cina, in cui la domanda di energia cresce a ritmi elevati, ma diminuiscono però anche gli investimenti nel settore energetico, quando invece dovrebbero aumentare. Per affrontare la crisi economica, l'Enea infatti suggerisce più efficienza energetica attraverso l'innovazione tecnologica, quindi investimenti nelle rinnovabili per differenziare le fonti e diminuire la dipendenza dall'estero. L'Ente per l'Energia e l'Ambiente infine dice sì al nucleare, che potrà avere un importante effetto in termini di sviluppo tecnologico. In ogni caso, nucleare e rinnovabili, secondo il presidente Paganetto, non sono alternativi ma entrambi necessari. E da Roma è tutto, a voi. Grazie Alessandra Schepisi. Abbiamo parlato, anche la nostra Alessandra Schepisi ci parlava di fondi e di investimenti, e noi questo ci consente di tornare al tema del Mezzogiorno. Abbiamo sentito poco fa del confronto politico su questo tema, ma nel merito come funziona questa nuova, chiamiamola così, questione meridionale? Da una parte il governo esita ad affidare risorse alle regioni del sud per timore di un cattivo utilizzo, e anche iniziato a commissariare uno dei settori di più forte spreco di fondi pubblici, cioè la sanità. Dall'altra parte la classe politica politica meridionale denuncia una mancanza di attenzione verso il mezzogiorno a favore del nord a causa della Lega, contesta l'utilizzo delle risorse dei fondi FAS, quelli per le aree, sottosviluppate, scusate, per altri usi. Dove sono i torti e le ragioni? Paolo Piacenza lo ha chiesto al professor Carlo Triglia, docente di sociologia economica all'Università di Firenze ed editorialista del Sole 24 Ore. Torti e ragioni si distribuiscono, non so se equamente, ma comunque tra le varie parti del nord e del sud. Il partito del sud riflette evidentemente le difficoltà che ci sono per chi fa politica nel mezzogiorno, nel momento in cui i rubinetti della spesa pubblica si chiudono o non funzionano come nel passato. Però mi sembra che anche all'interno del discorso che si è aperto sul partito del sud non si rifletta adeguatamente su quelle che sono state e sono tuttora le responsabilità di una fetta consistente della classe politica meridionale, al di là dello stesso colore politico, nell'uso che è stato fatto per molti anni dei fondi per il mezzogiorno. Quindi il vero nodo è cercare di capire come delle risorse che servono indubbiamente per il mezzogiorno, senza le quali non si possono realizzare quegli adeguamenti infrastrutturali delle vie di comunicazione, non si possono fare le nozze con i siti secchi. Però è anche vero che ci vuole una riflessione attenta su come sono stati spesi spesso male questi fondi nel passato, e quindi bisogna riflettere su modalità nuove che a mio avviso dovrebbero vedere un maggiore coinvolgimento del centro rispetto all'esperienza passata, insieme ovviamente alle regioni, con dei tavoli più trasparenti in cui si possa verificare effettivamente come queste risorse verranno spese, senza trasferirle in spesa corrente, in stipendi, in trasferimenti alle famiglie, in sussidi, ma convogliandole effettivamente su alcuni grandi progetti che devono avere un carattere anche transregionale. Cioè, lei dice, una sorta di centralismo della redistribuzione delle risorse. Se devono esserci risorse che vanno dal nord al sud, e ci devono essere, però queste siano verificate con un criterio di verifica al centro. Con un criterio di verifica al centro che associ ovviamente le regioni, senza le quali non è possibile sviluppare queste procedure, anche per il tipo di percorso previsto dalla stessa programmazione comunitaria, ma creando un tavolo trasparente con la presenza del centro che verifichi effettivamente che tra le regioni e nelle regioni si sviluppino delle modalità adeguate nell'utilizzo di questi fondi. E siamo con la nostra Giulia Crivelli, con la nostra rassegna dei quotidiani internazionali oggi. Partiamo dal Financial Times, Giulia, perché mi sembra curiosa la scelta del quotidiano. Sì, c'è questa iniziativa che non si sa bene se e quando andrà in porto, ma è stata annunciata, di creare alcune nuove festività. Per la precisione vengono chiamati bank holidays in Inghilterra, sono molto comodi perché cadono sempre di lunedì, quindi danno sempre la possibilità di fare un weekend lungo. Un bel weekend lungo, sì. Sono giorni di festività ufficiali, quindi osservati da tutte le aziende, tutte le società, e un po' la scusa è che bisogna creare, così chiede il governo, e questa è un'iniziativa lodevole, trovo, un giorno in cui si ricordino le morti bianche sul lavoro, o comunque le morti sul lavoro. Allora, perché non unire le due cose? C'è il fatto che ci vuole questa nuova festività al fatto che molte aziende nel mondo, lo sappiamo, c'è un servizio anche oggi sul Sole 24 Ore, stanno in qualche modo allungando le ferie o accorciando le settimane lavorative, perché la richiesta ovviamente sul mercato è minore, quindi piuttosto che chiudere o licenziare si può lavorare di meno, e questa è una soluzione che forse potrebbe appunto unire l'utile al dilettevole. La proposta c'è, vedremo se entro l'estate sarà approvata. Italiani all'estero, Giulia. Sì, questa è un'altra notizia interessante che c'è un po' su tutta la stampa, soprattutto quella francese ma anche americana, ed è l'offerta del gruppo Borletti, che è un gruppo italiano, controlla la Rinascente ma anche i grandi magazzini francesi Printemps, e ha fatto un'offerta per rilevare Christian Lacroix. Christian Lacroix è una piccola maison di alta moda francese, ha un fatturato piccolo ma è un nome molto famoso, è importante salvarla per il governo francese. Il ministro dell'industria riceverà oggi Christian Lacroix, il ministro dell'industria francese, e intanto però l'unica offerta un'offerta ritenuta sensata, valida e con, forse anche perché è stata fatta proprio insieme al creatore Christian Lacroix dal gruppo Borletti, e appunto quella del gruppo italiano, che ha ottime possibilità di aggiudicarsi questa maison di grande prestigio con i conti messi un po' male, ma che si possono sempre riaggiustare. Grazie anche per oggi, Giulia. Buona giornata. È notizia di poco fa che l'antitrust ha deciso di aprire un'indagine sulla Sisal, la società che gestisce il Superenalotto, per abuso di posizione dominante. Noi parliamo proprio di Superenalotto, ma con una storia curiosa, una storia che arriva da Roma. Cristina Fei, dove ti trovi innanzitutto? Sì, buongiorno a tutti. Sono qui in zona Villa Bonelli, un quartiere residenziale di Roma, dove un tabaccaio, pensate, ha dimenticato di giocare la schedina di un sistema al Superenalotto, un 5+1 da oltre 2.400.000 euro, da dividere con la ruota vincente di Torino. Perdonami Cristina, il punto fondamentale è che la schedina non era sua, tra l'altro. Esattamente, erano coinvolti 15 giocatori che ovviamente non riscuoteranno mai 90.000 euro a testa del jackpot. Io sono entrata nel negozio per capire cosa è successo, c'era silenzio e diffidenza, mi hanno circondata sulla porta in quattro temendo che fossi un'ispettrice di polizia in borghese. Ho tentato, come ti dicevo, di farmi raccontare la vicenda, ma il gestore mi ha liquidato con un secco "non lo sappiamo ancora", e che si tratti di beffa o distrazione, la storia passa ora nelle mani di un giudice, perché i presunti vincitori hanno deciso di rivolgersi a un avvocato per chiedere un risarcimento da 50.000 euro. E da Roma è tutto. Le 13:45:45. Adesso parliamo proprio dell'ordinanza che sta facendo discutere in queste ore, emanata dal sindaco di Pordenone. Insomma, abbiamo letto dei titoli preoccupanti, insomma, nei quali si diceva che anche un assembramento di due persone nel momento nel quale urlino e si agitino un po' non è lecito. Vogliamo capire se è vero con Sergio Bolzonello, che è il sindaco di Pordenone e quindi il firmatario di questa ordinanza. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, ci spiega un pochino che cosa è successo, da cosa nasce questa ordinanza, anzi andiamo dall'inizio, che cosa dice esattamente questa ordinanza? Ma l'ordinanza spiega semplicemente che c'è l'impossibilità di assembrarsi, di stazionare da parte di alcune persone, di due o più persone, in una piccola parte della città che in questo momento è ostaggio da parte di una ventina di persone, tossicodipendente, pack bestia, eccetera. Abbiamo oltre 100 famiglie che fanno fatica ad entrare in casa. Tutto qui. E questo è quello che prevede l'ordinanza. Avete avuto molti problemi in quella zona, quindi? Sì, in quella zona da oltre 7-8 mesi, quasi un anno ormai, ci sono concentrate tutta una serie di persone che sono ai limiti proprio della marginalità. Siamo intervenuti con i servizi sociali, poi col coordinamento di ordine e sicurezza assieme al prefetto. Non siamo riusciti a venire a capo di molto e adesso arriviamo, sia pure a malincuore, a questa ordinanza. Voi dovete immaginare che queste persone in quella zona stanno tenendo in scacco appunto tutte queste famiglie ed è un problema reale, deiezioni umane, i cani dei pack bestia, ubriachezza, violenza nei confronti degli abitanti con una serie di problemi, e quindi proprio questo è. Sindaco, però se non siete riusciti con i servizi sociali, se non siete riusciti con il Comitato Ordine e Sicurezza, pensa che un'ordinanza possa avere successo a questo punto? No, penso che questa ordinanza di fatto permetta agli abitanti comunque di avere un minimo di tranquillità, nel senso che questa ordinanza permette alle forze di polizia di denunciare queste persone, farle immediatamente evacuare da quella zona e poi cercare di trovare sempre con i nostri servizi, eccetera, un qualche percorso di cura di queste persone, insomma. Certo che non potevamo lasciare che oltre 100 famiglie non potessero più entrare in casa di fatto. E vale, sindaco, questa ordinanza solamente per quella piccola zona, cioè non c'è il rischio che venga fraintesa e valga anche proprio, addirittura cito i numeri civici dove sta succedendo questa cosa, quindi proprio non è una cosa fatta così tanto per fare. Tra l'altro ci arrivo con qualche problema di tipo personale. Io sono convinto che le ordinanze dei sindaci molte volte siano per farsi un po' di pubblicità o cose di questo tipo, e in questo caso c'era la necessità di farla e basta. Grazie dunque per i suoi chiarimenti a Sergio Bolzonello, sindaco di Pordenone, per essere stato con noi. Salutiamo invece Armando Zelli, che è segretario generale della Federazione Ambulanti di Confcommercio. Buongiorno Zelli. Salve, buongiorno. Che cosa succede qua? Succede quello che è stato anche denunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Firenze, e non solo da lui naturalmente, che domani entra in vigore a causa di una serie di, possiamo chiamarli, disguidi legislativi, perché c'era una direttiva europea che è stata accepita dall'Italia in modo molto particolare. Entra in vigore un divieto per gli ambulanti, inteso come i baracchini che vendono i panini, tanto per fare un esempio, quelli che vendono la porchetta, ma anche le sagre e cose di questo genere, le feste di paese, no, di non vendere più alcolici. È così, Zelli? Sì, in realtà è successo questo, che in sede di recepimento di alcune normative comunitarie, la legge comunitaria che ogni anno viene fatta, quindi nel caso in specie la legge 7 luglio numero 88, che appunto entra in vigore domani, è stato modificato un articolo di un'altra legge, della legge 125/2001, e quindi è stato stabilito che chiunque vende o somministra alcolici su spazi e aree pubblici diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi, di fatto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Sono anche delle cifre rilevanti. Sono cifre assolutamente rilevanti, perché tenga conto che in genere le sanzioni che si applicano sono o il doppio del minimo o un terzo del massimo in regione più favorevole, quindi gli operatori rischiano il doppio del minimo, quindi da 4.000 a 6.000 euro di multa. Questa è la realtà. La direttiva europea non prevedeva nulla di tutto ciò, in realtà. No, la direttiva europea non è una direttiva. C'è una direttiva che dà una serie di indirizzi in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol. È una direttiva numero 625 dell'ottobre 2006. Però in sede di recepimento italiano, nel Parlamento italiano, a seguito di un emendamento che era originariamente, come dire, previsto combattere il fenomeno della diffusione illecita dell'alcol nelle ore notturne, hanno buttato l'acqua insieme con il bambino, insomma, l'acqua sporca e il bambino. Allora, via di soluzione, senza addentrarci troppo, diciamo, nella materia legislativa. Allora, la soluzione, innanzitutto, se lei crede che questa cosa alla fine verrà applicata oppure no, perché essendo chiaramente un errore legislativo, io penso che ci saranno indicazioni alle forze di polizia di evitare di intervenire in questi casi. Insomma. Noi speriamo vivamente di no, nel senso che però, la legge è questa, da domani entra in vigore, quindi c'è questo chiunque. Che però sia un errore l'ha riconosciuto il Parlamento stesso, perché già approvato un ordine del giorno, lo stesso giorno in cui ha approvato una legge, in cui, cito testualmente dagli atti parlamentari, premesso che la norma in questione potrebbe prestarsi in generali equivoci, incertezze in sede interpretativa, decide, impegna il governo a cambiarla. In realtà il 22 luglio la decima commissione presieduta dall'onorevole Gibelli e con il parere favorevole del governo ha già approvato un emendamento che fa ritornare la situazione a come era prima, cioè alla normalità. Le chiedo una risposta secchissima, perché abbiamo pochissimo tempo. I tempi di soluzione di questa vicenda, Frank, francamente non so immaginarlo. Okay. L'atto, l'atto in questione, quindi, la legge comunitaria 2009, sì, l'atto della Camera 2449 è ancora in sede di commissione referente. Quindi con tutto il lavoro parlamentare che c'è potrebbe essere il famoso anno del mai. Speriamo invece che le cose cambino presto. Grazie a Armando Zelli, segretario generale della Federazione Ambulanti di Confcommercio, per essere stato con noi. E noi rapidamente vi avevamo promesso un reportage del nostro Dario Ricci, un racconto del nostro Dario Ricci inviato ai mondiali di nuoto di Roma. Ebbene, sentiamo. Allora, qui sul Lido di Ostia, gare di fondo in corso, e siamo con Fabio Tacca, coordinatore delle unità cinofile della Federazione Italiana Nuoto, con dei protagonisti davvero particolari. Dici solo i nomi, Fabio. Allora, al momento ci sono 4-5 unità cinofile. Quella che conduco io si chiama Geminorum Zoe, detta Nana. Poi c'è un Angus Walters detto Gas, poi c'è una Maya in acqua adesso, e lì c'è il fratello di Gas detto Nino. Stiamo parlando chiaramente dei cani Terranova e Labrador, che sono stati anche protagonisti di queste gare di fondo a Ostia, perché a loro è stata anche affidata parte della sicurezza in acqua. Ecco, come vengono allenati e preparati questi cani a questo compito così importante e particolare? Beh, il grosso della responsabilità comunque ce l'abbiamo noi conduttori, quindi diciamo che bisogna innanzitutto essere assistenti bagnanti con la Federazione Italiana Nuoto, che è un requisito fondamentale per la partecipazione ai corsi di formazione per unità cinofile. Poi è logico, l'amore per il proprio cane comunque fa il resto, e un'obbedienza generale di massima. Poi daremo noi tutte le informazioni del caso per fare le attività con il proprio cane. Una cosa che, a mio avviso, per la quale mi sono battuto tanto poi oltretutto, è la Federazione Italiana Nuoto può brevettare i cani finalmente non di marca. Diciamo, va benissimo, vanno bene tutti i cani di razza, quindi Labrador, Terranova e qualsiasi altra razza conosciuta, però anche il medicetto, se ha il riferimento legale, quindi il microchip o il tatuaggio di legge, può diventare anche lui assistente bagnanti. Quindi è una bella soddisfazione, un bel traguardo. Ecco, quali sono le qualità che devono avere questi cani per potervi aiutare nelle operazioni di soccorso? Innanzitutto un amore spassionato per il conduttore, una capacità natatoria tra virgolette abbastanza valida, e poi tanta pazienza e tanto lavoro per mantenerli sempre in piena forma. Come hanno preparato questi Terranova il loro mondiale? Perché parliamo sempre degli atleti, ma immagino che anche loro abbiano dovuto fare una preparazione ad hoc. I nostri amici a quattro zampe non hanno fatto altro che allenarsi durante il periodo invernale e quel po' di estate che è appena passata, sempre a nuoto, sempre con noi e quant'altro, insomma. L'importante è che ci si diverta tutti insieme. C'è stato qualche episodio particolare che li ha visti coinvolti in questi giorni ad Ostia? No, fortunatamente no. Noi poi in questa manifestazione sì, siamo responsabili di parte della sicurezza, però è un'attività che non possiamo far tanto, visto che tutte le attività si svolgono un po' lontano dalla riva, poi con tutta l'assistenza che c'è in acqua, insomma ce n'è per ogni gusto. Quindi fortunatamente solo mare e sole. È andato tutto bene, abbiamo svolto bene il lavoro a terra fino ad oggi. Le principali notizie della giornata: approvato dalla Camera il decreto anticrisi, possibile modifica al Senato, dice il Presidente del Consiglio. Berlusconi parla anche di Afghanistan, non si cambia linea. Dopo mesi di indagine è stato sequestrato l'ospedale di Agrigento, a rischio il cemento, che è fragile. Ci sarebbero nuovi indagati per le stragi di mafia del 92, fra loro forse anche uomini dei servizi segreti. Il G2 è nato, ieri storico incontro alla Casa Bianca, tra Obama e i vertici cinesi, il Presidente parla anche di diritti umani. La storia della schedina mai giocata: avevano fatto un 5 più 1 al Superenalotto, ma il tabaccaio non l'aveva passata nella macchinetta. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Fabio Cantadori, al coordinamento Daniele Biacchessi. Il prossimo giornale radio è alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.